Oggi vorrei suggerirvi qualche pensiero sulla preghiera, perché non c'è nulla di così facile e di così difficile come pregare. Non c'è nulla di così facile perché ci viene spontaneo rivolgersi al Signore quando siamo in una necessità. E poi forse siamo stati così fortunati che la nostra mamma, la nostra nonna in casa nostra ci hanno insegnato le preghiere e dunque le diciamo a memoria, le diciamo anche al buio, le sappiamo. Eppure è anche difficile pregare, tant'è vero che un sacco di gente proprio non prega mai. E un altrettanto sacco di gente prega troppo spesso rivolgendosi a Dio chiedendo, che non è un gran bel modo di pregare, vi sembra? Io credo che dovremmo dunque imparare a pregare, non scandalizzatevi se dico imparare a pregare. Io ho oltre 70 anni, sto ancora imparando. Per esempio, un modo bellissimo con cui io prego è il canto. Perché quando uno canta, in genere non si chiede nulla a Dio, gli si fa la serenata, si canta in suo onore e quindi è un bel modo di pregare cantando. E magari vedremo in altri pensieri di aggiungere qualcosa, ma oggi volevo anche dirvi che è un bel modo di pregare e leggere il Vangelo pensandoci. Prendiamo per esempio il Vangelo di oggi, capitolo di Giovanni, capitolo 12, versetti dal 24 in poi. Sentiamo Gesù che dice: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, cioè il Padre. E raddoppia: chi vede me vede colui che mi ha mandato. Ecco, io in genere mi preparo alla Santa Messa leggendo prima le letture, leggendo la messa sul messalino quotidiano, perché non voglio arrivare improvvisando. E oggi pensavo, Gesù ci parla del Padre. E subito dentro di me è venuto questo pensiero: Gesù, io anzitutto amo te. Da giovane, quando ho lasciato la mia vita per diventare sacerdote, è perché tu mi hai innamorato e tu mi hai fatto capire che non c'è nulla al mondo bello quanto te. Bello, bello, bello. Tu non solo sei un Dio buono, sei un Dio bello che mi innamori. Mi hai innamorato di te e delle tue parole, dei tuoi miracoli, del tuo Vangelo. E guardando te, poi mi sono trovato ad amare tantissimo Dio Padre, proprio perché tu avevi questo rapporto col Padre e mi sei stato maestro. Allora ho scoperto che Dio Padre è la sorgente di ogni amore paterno e materno sulla terra. E mi sono detto: ma in un uomo e una donna che sono genitori, da dove viene quell'amore altrimenti impossibile? È un amore che supera tutto, che fa dare la vita, che fa dare tutto. Allora ha detto: Padre nostro che sei nei cieli, veramente in te, Padre, c'è la fonte di ogni paternità e maternità in cielo e sulla terra. E poi, sempre guardando Gesù e il Vangelo, ho scoperto lo Spirito Santo, che è mandato dal Padre ed è mandato da Gesù ed è l'anima, la vita della Chiesa, che è mia madre. Vedete, amici, si può chiedere al Signore tutto, si può chiedere al Signore la salute, si può chiedere al Signore il lavoro, la casa, si può chiedere al Signore anche i soldi se c'è bisogno. C'è gente magari che va in giro elemosinando i soldi, ma non prega mai Dio di aiutarlo. C'è gente che fanno gli accattoni ma non vanno mai in chiesa a pregare. Al massimo vanno in chiesa a rubare i soldi dalle cassette, al massimo. Noi dobbiamo imparare a chiedere a Dio tutto, però dobbiamo imparare a guardare in faccia il Signore Gesù, a guardare in faccia il Padre, a guardare in faccia lo Spirito Santo. Dobbiamo imparare, amici, in questo senso dicevo che bisogna imparare. Allora vi auguro di prendere in mano il Vangelo, voi, da soli, perché oggi ve l'ho come cucinato io il Vangelo, ma dovete imparare a cucinarvelo da soli, a farvi, a prepararvi da mangiare da soli, prendere in mano il Vangelo, fermarsi, meditare, pensare e a trasformarlo in preghiera.